Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Proprio pochi giorni fa stavo cucinando e osservavo che quella che oggi compriamo come sogliola al supermercato 20 anni fa ci sarebbe sembrata piccola come un'acciuga. Il mare, insomma, si sta veramente svuotando di pesci, lo possiamo constatare coi nostri occhi, e tra l'altro si sta riempiendo di meduse, dato che, come accade sempre in natura, se si lascia un vuoto questo viene subito colmato. Perché vi racconto questo dettaglio un po' insignificante? Perché questa sera vi portiamo in mare per parlarvi di un'applicazione cloud destinata ai pescatori, una delle professioni più antiche e anche però una delle più in pericolo, soprattutto nel nostro paese, coi pescatori schiacciati tra il costo del combustibile e un mare che è sempre meno generoso, povero ormai di pesce a causa proprio dell'eccesso di pesca che c'è stato in passato e anche della sua bassa efficienza. Pensate che il 40% di quello che viene catturato dalle reti viene poi ributtato morto però in mare. E poi c'è anche l'invenduto. Allora, che cosa possono fare la rete e la tecnologia cloud per mitigare questa situazione? Beh, ce lo spiega Federico Pedrocchi, che ne ha scovata una delle sue. Sentite un po'. Usciranno stasera gli altri. Sto guardando un video. Qui c'è un pescatore con in mano dei polipi. Giacomo, mi sembra che uscirà a pomeriggio. Perché mi ha detto pure ieri che un giorno io si afferma con la barca che dobbiamo fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa, dice questo pescatore barese, con accento barese. Il problema è che io adesso, questa sera, ho al telefono Cristina Farioli. Buonasera, Farioli. Buonasera, buonasera a voi. Direttore marketing e comunicazione di IBM. E cosa è successo? La crisi ha colpito duramente e vi siete buttati sul pesce? No, non credo che sia così. No? Direi che grazie a un sistema cloud anche la professione, diciamo, più antica del mondo come la pesca si innova. Infatti, no, immaginavo che IBM non avesse cambiato settore imprenditoriale buttandosi sulla pesca. Le voci che avete sentito sono da un video che IBM ha fatto, molto breve, si può trovare anche su YouTube, nel quale c'è un pescatore che dice, insomma, qua ci sono un po' di problemi, c'erano un po' di problemi soprattutto per la pesca. Questo sistema, vediamo prima cosa produce. Ci sono barche da pesca in largo, al largo sul mare, e che vantaggio hanno? Cos'è che possono fare adesso che prima non potevano fare? Beh, diciamo che oggi possono pescare quello di cui hanno realmente bisogno. Grazie a un sistema palmare, i pescatori sono in grado di vedere quali sono gli ordini, quindi online, e di pescare, diciamo così, solo il necessario durante la giornata. Ovviamente tutto questo è possibile con un'infrastruttura dietro che non si vede, appunto una nuvola che è il cloud. Loro riescono a pescare la giusta quantità e anche a portarla, se non ricordo male vedendo il video, nei luoghi giusti, dove il mercato effettivamente la può assorbire. Sì, assolutamente. Diciamo che riescono a pianificare tutta la loro attività, dal momento del prelievo al momento dello scarico nei luoghi in cui l'ordine è arrivato, rispettando anche i tempi. Questo è di enorme vantaggio, chiaramente, perché si evita di gestire i rifiuti, quindi di pescare in sovrabbondanza, di rispettare l'ecosistema marino. Certo. E anche di monitorare, come dire, l'andamento dei prezzi del pescato. Detto questo, allora, un sistema di questo genere, se fosse stato da implementare soltanto poco tempo fa, forse un paio d'anni fa, ma forse ancora meno, avrebbe avuto dei costi per queste cooperative di pescatori assolutamente inavvicinabili. Invece con il sistema cloud, IBM è uno, no, dei fornitori, grandi fornitori di sistema cloud, tutti i costi si abbattono, l'efficienza cresce, e è qui che sta il punto. Sì, direi che è il punto fondamentale, cioè oggi sia i piccoli che i medi che i grandi, intese come aziende, come attività professionali, possono godere, come dire, di una grande capacità elaborativa di utilizzare sistemi innovativi grazie appunto al cloud, perché si abbattono i costi, si paga solo del servizio di cui si ha bisogno. Perché praticamente tutti i dati girano sulla rete dei grandi sistemi, delle grandi aziende. sono in grado di gestire tutti questi dati attraverso la rete e all'utente fanno pagare soltanto il singolo specifico servizio, è lì che c'è l'abbattimento dei costi. Naturalmente IBM poi è impegnata anche in utilizzi di cloud per realtà molto più complesse, immagino. Sì, però a me piace ricordare, perché l'abbiamo fatto per più di 3 anni, tutto il tema delle città. Credo che oggi le città piccole e medie, grazie al cloud, possono effettivamente innovarsi, mentre sino a 2 anni fa si parlava solo di grandi città che potevano trasformarsi a 360 gradi perché potevano avere la capacità e la disponibilità. Oggi, da un lato perché esiste una legge che chiede alle piccole città di aggregarsi, dall'altro perché esiste questa tecnologia, anche i piccoli possono innovarsi. Credo infatti che il tema principale di questa brevissima conversazione sia il fatto che delle realtà piccolissime come queste di cooperative di pescatori possano avere degli enormi vantaggi per quanto riguarda la loro attività. Grazie Cristina Farioli, buon lavoro. Grazie a voi. Ma insomma, un sistema che permette di ottimizzare le rotte dei pescherecci e insieme di incrociare con maggiore precisione domanda e offerta per evitare sprechi inutili e diseconomie. È qualcosa che certamente può avere un ruolo decisivo all'interno dello strumentario che dobbiamo mettere in piedi per salvare, ormai le cose stanno così, il salvabile. E con questa nota un po' triste vi saluto, ma vi auguro un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì.